Capitolo sesto. Essere gioia, essere pace, essere. Pim. Ci sono alcune cose che avete detto che vorrei approfondire. Ecco le vostre parole. La cosa importante è concentrare la propria attenzione sulla soluzione e non continuare a giudicare, amplificare e mettere in risalto ciò che desiderate cambiare. Più praticate la nota che non desiderate e più energia mettete nel suono di ciò che non volete. Mi sembra che questo sia un punto centrale del vostro credo, e allo stesso tempo una delle cose che noi qui su Gaia facciamo esattamente al contrario, un po' perché siamo stati educati così, un po' per difenderci, un po' per abitudine. Per spiegarmi meglio, faccio l'esempio di una coppia. Immaginiamo che marito e moglie si amino, ma che il rapporto sia difficile perché le reazioni del marito sono spesso forti, a volte rabbiose. Questa energia spaventa la moglie, che desidera fortemente cambiare la situazione, perché si rende conto che per lei sta diventando insostenibile, e alla lunga rischia di distruggere la relazione. La cosa più naturale è che la moglie sottolinei ciò che le fa male, ciò che non va, ciò che desidera cambiare. Un altro esempio potrebbe essere quello del genitore che vede qualcosa che non va nel comportamento di un figlio, e anche qui il desiderio è di cambiare ciò che non va. Forse è anche ciò che avviene tutte le volte che qualcosa non ci piace, ci spaventa e vogliamo cambiarla. Anche in questi casi sottolineiamo ciò che non va: non ho abbastanza soldi, non ho veri amici, non ho energia, non riesco a mangiare correttamente, eccetera. Se capisco bene, voi dite che il cambiamento positivo avviene se l'attenzione viene messa su ciò che funziona e non su ciò che vogliamo cambiare. Quindi vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, dire bene invece di dire male, sottolineare ciò che ci piace e non ciò che non va e che vogliamo cambiare. Tornando all'esempio, la soluzione che la moglie desidera è un'energia di pace. Se la moglie riesce a vedere quell'energia nel marito, se riesce a scoprire il comportamento positivo, e lo sottolinea, quell'energia cresce. Se invece sottolinea ciò che non va, ciò che vuole cambiare, è l'energia negativa che cresce. Vedere il bello degli altri fa crescere il bello, e viceversa? È così? Guide e maestri. Partendo dal tuo esempio, ci sono diversi aspetti da considerare. Siamo creatori della nostra realtà, non di quella degli altri. Per prima cosa ricordiamoci che siamo tutti creatori della nostra realtà su Gaia. Ciò vuole anche dire che siamo responsabili delle nostre esperienze, del modo in cui pensiamo, parliamo, agiamo e manifestiamo. L'esprimersi con rabbia provoca, solitamente, una reazione di difesa da parte di chi vi è di fronte. La difesa è una risposta istintiva. Attacco-difesa, attacco-difesa. È vero che a seconda del livello di consapevolezza in cui ci troviamo, possiamo avere o una risposta di difesa o una risposta guidata dal distacco santo, e che quando usiamo il distacco santo siamo capaci di non prendere la situazione a livello personale. Ma è importante capire che non siamo certo noi a decidere il livello di consapevolezza di chi ci è di fronte. A nessuno è permesso di avere quel livello di controllo sul comportamento altrui. Diversi livelli di consapevolezza. Il marito vorrebbe che la moglie non si agitasse e difendesse, ma restasse calma. Ma anche la moglie vorrebbe che il marito avesse un livello di consapevolezza tale da modificare il suo comportamento di rabbia in uno armonioso e calmo. La verità è, come abbiamo già detto, che nessuno dei due ha controllo sull'altro, ma che entrambi hanno il controllo assoluto su loro stessi, sui loro pensieri, sulle loro convinzioni, e sulle loro preferenze. Ripetiamo ancora una volta che l'unica relazione primaria che esiste per ogni essere incarnato su Gaia è quella tra se stesso e l'uno. Il cercare di cambiare e trasformare il comportamento altrui in modo che noi ci possiamo sentire sollevati emotivamente è una partita persa in partenza. Potete cercare di influenzare positivamente, o manipolare, un altro essere incarnato, moglie, marito, figli, amici, così da modificare il loro comportamento in un modo più idoneo alle vostre aspettative, ma il risultato non sarà mai duraturo, a meno che non ci sia un cambiamento che arrivi da una risonanza profonda con la nota originaria contenuta in ognuno di voi. Ciò che stiamo cercando di farti comprendere, è che la crescita spirituale di ogni essere incarnato sul pianeta è certamente ispirata dall'osservazione e partecipazione in ciò che è esterno a voi stessi. La ragione principale per la quale vi siete incarnati in una dimensione dove esiste la dualità è di fare esperienza di voi stessi. Ma il libero arbitrio, il modo in cui decidete di fare esperienza di questo passaggio sul pianeta, appartiene unicamente a voi. e nessun altro ha alcun potere sulla direzione che decidete di seguire, incluse le reazioni del tipo dire bene o dire male. Le leggi dell'universo sono eterne e costanti, e in completa risonanza con l'uno. Voi siete l'uno e avete il potere in voi di accordarvi con la vostra nota originaria, e di creare una musica che sia in armonia con quella nota. Quando fate esperienze che sono disarmoniche, la cosa migliore è fermarvi e guardare a voi stessi, riconoscendo che l'unico potere che avete è di riaccordarvi, riarmonizzarvi, senza preoccuparvi di chi vi sta di fronte. Gli altri ci fanno da specchio e ci offrono l'opportunità di guardarci dentro e sentire la nostra armonia o disarmonia con la nostra nota originaria. Non abbiamo alcun controllo o potere sugli altri. L'unico controllo assoluto che abbiamo è quello su noi stessi, sui nostri pensieri, convinzioni, preferenze, eccetera. Noi possiamo cambiare solo noi stessi. Chi vi sta di fronte sta semplicemente servendovi da strumento per farvi avvertire la disarmonia in voi. E voi state offrendo la stessa opportunità a loro. L'attenzione va rivolta a se stessi. Questo passaggio, che chiamate in termini umani vita, è relativo alla crescita della vostra nota particolare. Quando rivolgerete la vostra attenzione all'accordo della vostra nota originaria con la nota originaria universale, tutto ciò che è esterno si accorderà di conseguenza. Siete spiriti liberi. Conversazione sull'essere. Pim. Avete detto, gli altri ci fanno da specchio e ci offrono l'opportunità di guardarci dentro e sentire la nostra armonia o disarmonia con la nostra nota originaria. Non abbiamo alcun controllo o potere sugli altri. L'unico controllo assoluto che abbiamo è quello su noi stessi, sui nostri pensieri, convinzioni, preferenze, eccetera. Noi possiamo cambiare solo noi stessi. Capisco che siamo noi e solo noi i responsabili della nostra crescita e che, anche se vedo il bicchiere mezzo pieno, o se dico bene, non ho il potere di cambiare l'altro. E anche se l'altro dice bene di me, non può cambiare me. Ma credevo che se e quando io riesco a mantenere la calma, a vedere il bicchiere mezzo pieno, a dire bene, in qualche modo influenzo positivamente anche gli altri, e i risultati che ottengo sono buoni. Certamente non è garantito, ma spesso una specie di miracolo avviene, e l'energia lavora in una direzione che porta ad un deciso miglioramento. Pensavo che qualcosa di simile avvenisse se e quando sono gli altri a vedere il buono che c'è in me, a dire bene, a vedere il bicchiere mezzo pieno. E invece se mi sento criticato o giudicato, la mia energia si agita e perdo il centro. Quando avevate detto che la cosa importante è concentrare la propria attenzione sulla soluzione e non continuare a giudicare, amplificare e mettere in risalto ciò che desiderate cambiare, avevo pensato che per il cambiamento fosse importante anche il modo di reagire, e quindi dire bene, invece di dire male. Potete aiutarmi a capire meglio? Guide e maestri. Certamente il concentrare la propria attenzione sulla soluzione e non sul problema muove la risonanza in una direzione positiva. La nostra intenzione è di mostrarvi la profondità del processo creativo. Pim. Che volete dire? Guide e maestri. Esaminiamo una frase che hai detto. La tua espressione, quando io riesco a mantenere la calma potrebbe diventare, quando io sono calma. Ci rendiamo conto che nel vostro linguaggio terreno un'espressione del genere può apparire strana, ma la stiamo usando per cercare di chiarire. Una cosa è mantenere, altra cosa è essere. Mantenere è cercare di controllarsi. Essere è uno stato permanente che giunge da una crescita interiore, da un'armonizzazione interna, da un grande desiderio di crescita, con un movimento che non presta troppa attenzione alla risposta o reazione dell'esterno. La conseguenza sarà che l'esterno finirà con l'armonizzarsi al vostro suono, il miracolo energetico a cui ti riferisci, ma l'obiettivo profondo del processo creativo è la vostra armonizzazione con la nota originale universale. Lo stesso è vero per chi giudica e critica. Il loro lavoro è di armonizzarsi interiormente, perché è da quell'armonizzazione interiore, da quell'accordo universale, che anche chi giudica e critica riuscirà ad essere calma e pace, e non a cercare di mantenere la calma e la pace. Siete pace, siete amore incondizionato, siete abbondanza di ogni genere, siete benessere, siete liberi, siete creatori, siete l'uno. È quando c'è un'intenzione profonda di essere, che la trasformazione dell'esterno diventa duratura e armoniosa nel tempo. Siete pace? Siete calma? Siete chiarezza? Siete gioia? Siete abbondanza? Siete benessere fisico? Vi stiamo facendo queste domande perché è una verità universale che siete tutto questo e molto di più. Se avvertite disaccordo con la nozione di essere, è lì che dovete andare a guardare. Quella è la vostra crescita. Siete spiriti liberi. Pim. Comincio ad intuire ciò che dite, e mi sembra molto bello e importante. Mentre ascoltavo le vostre parole, avevo la netta sensazione che stesse crescendo il mio desiderio di essere calma, pace, chiarezza, gioia, abbondanza, benessere. Mi sembra che il desiderio sia il primo passo, l'inizio di un viaggio in direzione dell'armonizzazione con la nota originaria universale. Per usare il vostro esempio musicale, è come se cominciassimo a fare attenzione al suono delle note che suoniamo nelle nostre giornate. Se le avvertiamo stonate, ce ne rendiamo conto e proviamo a renderle più armoniche, accordandole col suono originale. Se le sentiamo intonate e ci piacciono, continuiamo a suonarle e a goderle. Mi sembra quindi di capire che il desiderio sia la spinta che ci fa iniziare il viaggio, che l'attenzione alle note che suoniamo, intonate o stonate, sia lo strumento che ci fa capire se stiamo andando nella direzione giusta, e che la meta sia l'essere in armonia con la nota originaria universale, essere calma, pace, chiarezza, gioia, abbondanza, benessere. Se penso al viaggio, mi viene in mente che è un po' un percorso in cui passo dopo passo, nota dopo nota, impariamo a portare il cielo in terra. Potete dirci qualcosa di pratico sulle tappe del viaggio, sul come imparare a portare il cielo in terra, sul come imparare ad essere calma, pace, chiarezza, gioia, abbondanza, benessere? Guide e maestri. Come hai espresso chiaramente in ciò che hai detto, il desiderio è il motore primario. Senza desiderio non c'è richiesta di cambiamento. Il desiderio nasce proprio dal malessere, e dall'attenzione che prestate alla disarmonia tra la nota del pensiero che state pensando e la vostra nota originaria. Ricordate che la vostra nota originaria è unicamente pace, armonia, abbondanza, eccetera. Hai usato l'espressione come portare il cielo in terra. Vogliamo ricordarti che il cielo è già in voi. Quindi ci piacerebbe trasformare l'espressione in come armonizzare la vostra parte incarnata in terra con la parte di voi che è cielo, e che è voi, di voi, in voi. È un chiarimento importante perché cielo e terra non sono in due posti separati. È tutto qui e ora. Armonizzate l'io terreno, ego, con l'io interiore, anima. Il primo passo, ripetiamo, è il desiderio di essere ciò di cui volete fare esperienza. Usate la vostra attenzione e ogni qualvolta sentite che la vostra nota terra è in disaccordo con la vostra nota originaria, fermatevi. L'attenzione al malessere, alla disarmonia. Il disaccordo vi dà una sensazione di malessere. Uno strumento scordato produce un suono disarmonico che, perdonateci l'espressione, fa male alle orecchie, dove per orecchie intendiamo le vostre orecchie interiori, quelle che vi segnalano la sensazione di malessere. Una volta che avvertite la disarmonia, fermatevi il prima possibile, distacco santo, e chiedetevi: cosa c'è che non va? Come posso accordarmi con il suono della mia nota originaria? Quale pensiero, o immagine, ha una risonanza accordata con la mia nota originaria? È un esercizio di attenzione e costanza, che all'inizio richiede molta pratica. Pim. Vorrei tornare al mio esempio. Immaginiamo che il marito che a volte ha un'energia forte o rabbiosa abbia il desiderio di cambiare, e che si fermi, e che si faccia le domande che proponete: cosa c'è che non va? Come posso accordarmi con il suono della mia nota originaria? Quale pensiero o immagine ha una risonanza accordata con la mia nota originaria? Quali sarebbero delle buone risposte a queste domande? O, in altre parole, quale esercizio porterebbe il marito ad essere calma, gioia, pace? Guide e maestri. È un dialogo interiore, fatto di domande e risposte con voi stessi. Cosa c'è che non va, Pim? Cosa sto pensando in questo ora, che sta causando questa disarmonia interiore? So che essere in contatto con l'origine dei miei pensieri in questo ora è la chiave per la trasformazione della disarmonia che sto avvertendo. Quale parte di me sta parlando in questo ora? Il bambino interiore? L'adolescente? L'adulto? Chi mi sta chiedendo di essere ascoltato? È un dialogo vero e proprio, un dialogo reale con voi stessi, con l'intenzione di lasciare andare ciò che non vi serve più. Pim. Intuisco molto meglio ora il tipo di esercizio che può portarci ad essere pace, calma, gioia. Capisco anche che cosa possiamo chiederci per iniziare il dialogo con noi stessi. E quelle domande aiutano a cercare l'origine della disarmonia. Vorrei capire come continuare il dialogo, per lasciare andare la disarmonia e trasformare. Guide e maestri. Una volta che individuate l'origine dei pensieri che creano disarmonia, il lavoro gioia è trasformarli in ciò che è in risonanza con chi siete veramente, con la vostra nota originaria. Questi sono alcuni esempi del lavoro gioia che potete fare. Mi rendo conto che in questo ora sto amandomi. L'ascoltare me stesso e la mia disarmonia è un atto di amore verso me stesso. La disarmonia che avverto è un dono enorme. Sono grato del dono che chi mi è di fronte mi sta offrendo. Io sono pace, serenità, gioia, chiarezza. Questa è la mia vera natura, ed è per questo che in questo ora avverto la disarmonia. Sto pensando pensieri che non mi appartengono. Senza questa esperienza, forse non me ne sarei reso conto. Sto diventando sempre più cosciente di ciò che non risuona con la mia nota originaria, e sempre più coscientemente sto trasformando e lasciando andare. Io sono. Questo è il mio mantra. Io sono pace, io sono gioia, io sono chiarezza, io sono abbondanza. Nell'io sono, c'è tutto, e c'è un'assenza completa di sforzo. Quando amo me stesso completamente, io sono. Visualizzatevi circondati di luce. Sentite il potere enorme dell'amarvi completamente, totalmente, senza limiti o esclusioni. Quell'amore è la vostra guida primaria. Attraverso quell'amore siete amore. Pim. La trasformazione duratura ed armoniosa di cui state parlando è un grande bel cambiamento. Ma cambiare davvero, e in profondità, non è facile. L'importanza del praticare. Guide e maestri. Allo stesso modo in cui richiede molta pratica e dedizione l'imparare a suonare uno strumento musicale, così richiede pratica e dedizione il riaccordare lo strumento meraviglioso che siete in terra con quello strumento interiore in ognuno di voi chiamato cielo. Il primo passo quindi è il desiderio, poi è richiesta l'attenzione e infine la pratica. Vi renderete conto che quando metterete alla base di tutto l'amare voi stessi, quando il vostro benessere sarà la vostra priorità assoluta, diventerà sempre più forte e facile da sostenere il desiderio di essere presenti nella disarmonia, in modo da riarmonizzarvi in tempi brevi. La sensazione di benessere diventerà sempre più familiare e la sensazione di malessere sempre più estranea, e quindi velocemente riconoscibile e trasformabile attraverso la scelta di pensieri con una nota diversa. Il risultato finale, anche se di finale non c'è nulla, lo capirete dal fatto che trascorrerete la maggior parte del vostro tempo in compagnia del vostro naturale stato di benessere, con saltuari momenti di disarmonia, che non faranno altro che darvi la possibilità di crescere un po' di più. È così che comincerete a essere pace, armonia, abbondanza, benessere. E riconoscerete il contrario semplicemente come un segnale che qualcosa che state pensando, o osservando, non è in armonia con il vostro suono originario. E coglierete l'invito a riaccordarvi. Praticate, prestate attenzione. Tutto questo è un atto d'amore verso voi stessi. Amatevi abbastanza da mettere il vostro benessere prima di tutto. Siete spiriti liberi. Pim. Avete detto, il primo passo è il desiderio, poi l'attenzione, e infine la pratica. Vi renderete conto che quando metterete alla base di tutto l'amare voi stessi, quando il vostro benessere sarà la vostra priorità assoluta, diventerà sempre più forte e facile da sostenere il desiderio di essere presenti nella disarmonia, in modo da riarmonizzarvi in tempi brevi. Che intendete con il desiderio di essere presenti nella disarmonia? Potete aiutarci a capire con un esempio? Guide e maestri. Spesso i primi segnali di disarmonia vengono o ignorati o soppressi, e questo perché ci mettono a disagio a livello interiore. Nello stesso modo in cui ci tappiamo le orecchie quando qualcuno suona uno strumento scordato, tendiamo a sopprimere il disagio che il nostro disaccordo interiore ci causa. I primi segnali sono i più importanti. Se li ignoriamo non faranno altro che diventare più forti e più organizzati nella loro frequenza, e ciò avviene a causa della legge dell'attrazione dei simili. Quando ignorate i segnali, vi servirà più tempo ed energia per riaccordarvi con la vostra nota originaria. E questo senza contare la possibilità, reale e concreta, che qualcosa in totale risonanza con il disaccordo si manifesti nella vostra realtà fisica. Per rispondere alla tua domanda, quando diciamo il desiderio di essere presenti nella disarmonia, intendiamo il desiderio vero di stare con la disarmonia, di accoglierla nel momento stesso in cui l'avvertite, con la consapevolezza che è semplicemente un messaggero che vi invita a riaccordarvi e a continuare nella direzione della vostra nota originaria. Quindi non evitate i segnali, perché altrimenti la disarmonia diventerà sempre più forte. Rimanete invece presenti, con la certezza che attraverso il vostro lavoro gioia di creatori, in tempi brevi vi sentirete meglio e più armonici. Anche questo naturalmente richiede attenzione e pratica. I primi segnali di disarmonia sono solitamente abbastanza sottili, a meno che non vadano a toccare una nota particolarmente forte, e comunque anche in questo caso vale l'invito a restare presenti. Ci hai chiesto un esempio. Torniamo a quello della relazione, a volte non armonica, tra marito e moglie. Sicuramente prima del sedersi e del parlare, prima della situazione di attacco e difesa, prima del cercare di dire bene o dire male, prima di tutto questo che già è manifestazione fisica, ci devono essere stati dei segnali a livello interiore, dei segnali di discordanza. Magari il marito o la moglie avranno cercato di sopprimerli con qualsiasi mezzo, dal cibo, alla televisione, al comprare, al dormire, al non sentirvi bene fisicamente, eccetera. Tutto ciò è parte di una reazione abitudinaria a determinate sensazioni di discordanza interiore. Sapete per esperienza personale che quando sopprimete i segnali col cibo, o altro, appoggiandovi a una qualunque delle vostre distrazioni principali, la sensazione di disagio interiore si placa, anche se solo per una piccola frazione di tempo. Questa è un'abitudine mentale. L'avete praticata così spesso che quasi non ve ne rendete più conto. Nel momento in cui praticate invece il senso di benessere, e il senso di benessere diventa il vostro normale modo di essere, siete più capaci di avvertire la disarmonia ai primi sintomi, e invece di sopprimerli, desiderate essere lì, in piena consapevolezza, con l'intenzione chiara e forte di riarmonizzarvi senza perdere troppo tempo. Vedete, è restando nell'ora che siete potenti. E la vostra presenza, la vostra attenzione, la vostra consapevolezza mentale, è assolutamente necessaria. È solo quando siete presenti nell'ora che il riaccordo con la vostra nota originaria diventa possibile. È stata una bella conversazione. C'è solo amore.